Radio 24. Libera la voglia di fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. After all the way we see, I got my hands full of machine. You could just put online, so I got some peace of mind. Ci auguriamo che il Presidente porti un messaggio, un minuto di solidarietà alle famiglie che hanno bisogno oggi di tutto, hanno bisogno di un alloggio, hanno bisogno di una doccia dove poter, di un bagno dove poter fare una doccia, hanno bisogno di assistenza psicologica, hanno bisogno di assistenza materiale per i propri figli. Ci auguriamo che il Presidente prenda un impegno serio con la cittadinanza, di vicinanza con i fatti, non con le chiacchiere. Speriamo semplicemente che il Presidente non si fermi qui in piazza solamente a vedere le cose belle, ma bensì che venga dove è successo il terremoto e si renda conto che le persone stanno per strada, non hanno abiti, non hanno da mangiare e si continua da ufficio a ufficio per gli alloggi, però comunque stiamo per strada, nessuno ci offre niente e stiamo qua. 18:07, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, stiamo insieme fino alle 20, 800 24 00 24. Lo stato d'emergenza per Ischia è stato dichiarato proprio oggi al Consiglio dei Ministri, giorno in cui il Presidente della Repubblica Mattarella è andato sui luoghi del terremoto. Stanziati primi milioni, primi spiccioli per l'emergenza, per la protezione civile, e intanto, secondo i primi accertamenti degli NGV e delle altre autorità, la maggior parte delle case che sono crollate a Casamicciola erano costruite con materiali buoni, quindi cade la questione dei materiali scarsi, cemento diluito, eccetera eccetera. Erano abusi semmai fatti a regola d'arte, ma pur sempre abusi, ma erano tutti privi di protezioni antisismiche. E torniamo alle solite, in una zona a media sismicità che però aveva avuto degli episodi di terremoti gravi in passato. Correggo anche quello che ho detto qualche giorno fa sull'assenza, sulla diciamo scarsità di efficacia degli bonus per mettere in sicurezza a norma le abitazioni. I bonus ci sono fino a 85%, sì, se, piano del, diciamo, dell'ultima legge di bilancio, però resta il fatto che anche con sgravi fino all'85% spesso le persone non hanno la possibilità di mettere la differenza. Il privato, se l'intervento costa 100.000 euro, 15.000 euro non ce l'hai da mettercela, allora resta il problema che tutto rimane fermo. Perché non pensare a sgravi, questa era l'idea, la provocazione, fino al 100%, cioè lo Stato, visto che di soldi ne spende tanti a vanvera, ne può spendere altrettanti, però per una cosa decisamente utile. Quanto ci è costata l'emergenza e la ricostruzione dai terremoti in questi anni? Cifre inenarrabili. Quindi la proposta, sgravi fino al 100%. Chi non fa gli interventi, a quel punto casa requisita. 800 24 00 24. Intanto, sul caso della bambina affidata ad una famiglia musulmana a Londra, bambina cristiana, sentiamo Adinolfi. Un volo per Londra in questo momento costa 100 euro. Andate là a guardare e guardate cosa diventano quei quartieri. Sono quartieri che non sono, sono evidentemente sotto un dominio. C'è anche la banca islamica, ma è quello che chiamano lì il Londonistan. Vogliamo questo? Questa è la domanda. Allora, Londonistan può sembrare una frase forte, però le cifre ufficiali sono queste. A Londra soltanto il 45% della popolazione oggi è costituita da bianchi britannici. In quel quartiere dove abitava la bambina, solo il 31%, cioè la stragrande maggioranza di alcuni quartieri di Londra non sono britannici, non sono bianchi, non sono cristiani, sono o asiatici o arabi, musulmani, la maggior parte di loro. Come riescono ad avere questo? Semplicemente con i flussi migratori, evidentemente, e con la demografia, facendo figli, facendo una marea di figli. Perché dominano? Perché in questi ultimi 15 anni hanno fatto più figli di tutti, si sono addensati, oggi eleggono il sindaco di Londra musulmano e 30 dei 45 consiglieri di Tower Hamlets sono di religione musulmana, quindi quando si va ai servizi sociali probabilmente trovi dei musulmani che non trovano per niente sbagliato affidare una bambina cristiana a una famiglia che, dove le donne portano il niqab e il burqa. Sulla vicenda invece dell'aggressione a un trans peruviano e a una coppia di polacchi a Rimini l'altra due sere fa, io non credo che ci sia stato un eccesso di buonismo, che si sono voluti coprire le identità, che fra l'altro non sono ancora note, della banda di quattro persone che ha aggredito, quasi sicuramente stranieri, quasi senz'altro nordafricani. Però qualcuno dice si è cercato di coprire per un eccesso di scrupolo, non so, di buonismo. Sentiamo. Sallusti. Per almeno due giorni l'informazione italiana ha omesso di dire, o quantomeno di dirlo con la chiarezza dovuta, di che nazionalità erano questi stupratori, cosa che agli inquirenti era nota da subito, perché lo stupro è durato diversi minuti e insomma ci sono le vittime sono anche testimoni, quindi che si trattasse di nordafricani lo si sapeva subito. E io penso che questo sia dovuto a quel virus che hanno seminato per l'Italia le varie Boldrini e i vari Saviano, cioè un razzismo all'incontrario, per cui non si può dire, non è politicamente corretto dire appunto che dei nordafricani stuprano delle donne. E intanto c'è anche l'endorsement di Milena Gabanelli nei confronti del ministro dell'interno Marco Minniti. Milena Gabanelli, figura carismatica della sinistra, dell'estrema forse anche sinistra in Italia, anche attratta dal diciamo attrattore anche degli interessi del Movimento 5 Stelle per un certo periodo, vi ricordate, è stata tra i possibili candidati alla presidenza della Repubblica per il Movimento 5 Stelle, il suo endorsement nei confronti di Marco Minniti. Ben venga un Minniti, uno può essere più o meno d'accordo, ma ha una strategia chiara, ha una competenza e agisce. Cioè, è bello fare accordi con uno Stato sì, che è così condizionato dall'industria dei trafficanti? No. Abbiamo un'alternativa? No. E quindi si fa così. Certo. Quindi io, il mio sostegno al ministro è totale. Come puoi pensare ad arrivare a un'integrazione con questa modalità? Tenendoli tutto il tempo a far niente, in attesa di capire se devono restare o devono essere rimpatriati. Chi deve essere rimpatriato e lo sa, presumibilmente sparisce. Chi deve restare, non gli vengono insegnate le regole fondamentali, i corsi di lingua. Cioè, come bisogna fare? Perché non puoi integrare uno che non capisce la lingua e che non sai che cosa sa fare. Allora, il giudizio su Minniti: sono diminuiti gli sbarchi. Cioè, uno dei massimi, forse il più grande problema, magari anche sovra rappresentato dai media, uno dei più grandi problemi di questi anni, problema economico, problema di sicurezza, problema di razzismo, perché i numeri del 2016, quasi 200.000 sbarchi, hanno preoccupato, impensierito molti italiani e hanno anche suscitato molto dibattito politico. Fortuna quella di Minniti, o ha azzeccato le mosse giuste? Coincidenza con l'attivismo di Macron, l'attivismo francese per esempio in Libia? Può darsi. Intanto come diceva Gabanelli, trovato delle proposte e messo in campo delle soluzioni concrete per la gestione dei flussi immigratori e dell'accoglienza, cose sulle quali normalmente in Italia si è parlato tanto, tanto, tantissimo, e si è fatto un po' meno. Dicono però, soprattutto a sinistra, ma i problemi adesso sono ricaduti in Libia, in Niger, in Centro Africa, dove i migranti non si sa come vengono trattati, ci sono dei veri e propri lager, ci sono i trafficanti. Ma questo, e ve lo domando cari ascoltatori, all'800 24 00 24, può essere un problema dell'Italia come vengono trattati i migranti nel tragitto da dove partono alle coste della Libia? Può essere un problema nostro? Dobbiamo andare a liberare la Libia, il Niger, allora anche l'Egitto da questi regimi? Ve lo chiedo, io credo di no, però ve lo chiedo. 800 24 00 24. Intanto... In Italia la questione continua perché c'è chi, come il sindaco di non mi ricordo il nome del paese, nel Vercellese, sentiamola, vuol multare tutti quelli che ospiteranno profughi nel suo paese. Il principio, secondo me, di tutela della vita umana. Nessuno può fare lucrare sulla vita, sulle, diciamo, le disgrazie, il momento di bisogno di altre persone. A me non interessa dei soldi che mi può dare il governo o lo Stato perché io prenda questi clandestini. Oh, vi faccio sentire anche un'altra cosa, che è questa. Ad accogliere Boris Johnson in Libia, la banda, non so che banda fosse, la banda del paese, della città, dello Stato, la banda ufficiale dell'esercito, che ha interpretato così l'inno inglese. Cioè, in una maniera che è più strafalcionesca di così non si può. Speriamo che a governare siano più bravi che a suonare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, intanto al 3422386666 c'è un ascoltatore, Francesco, che dice, rivolgendosi a me: non si sente in imbarazzo a dire bambina cristiana, a proposito della bimba di Londra, ma cosa vuol dire? Perché definirla con una religione una bambina di 5 anni? Perché il problema l'ha sollevato lei parlando con la mamma naturale, alla quale ha detto: Natale e Pasqua sono cose stupide, le donne europee sono stupide ed alcolizzate. Frasi che deriverebbero dall'istruzione che sta ricevendo in questa famiglia d'adozione, dove c'è un'applicazione stretta, rigida, quasi integralista a quello che sappiamo della religione musulmana. Lei è una bambina che fino allora aveva altri principi, altri valori, altri concetti. Ecco perché si tira in ballo questa questione. È con noi Michele Emiliano, buonasera. Buonasera. Allora, lei ha annunciato che la regione, non so se la regione in che forma, ma insomma, affiancherete i cittadini che stanno facendo ricorso contro la legge sull'obbligo vaccinale. Tra l'altro si va a scuola tra pochi giorni, le famiglie devono presentare dei certificati, ci sono chiaramente dei tempi di aggiustamento, però la questione è imminente. Perché avete fatto questo annuncio, Emiliano? Allora, per evitare equivoci, perché ovviamente è una guerra di religione quella che è stata scatenata dal cattivo approccio a questa materia da parte del governo, io ho vaccinato tutti i miei figli, sono convinto che le vaccinazioni sono utili e invito tutti coloro che mi stanno ascoltando a vaccinare i propri figli, perché io penso che sia una pratica corretta, utile, che abbatte i rischi e migliora le aspettative di salute della nostra popolazione. Fatta questa premessa, sì, ho preso atto però che, ripeto, in Italia c'è una guerra di religione. Una guerra di religione dove su questa vicenda, lei immagini che solo pochi anni fa il Veneto, con un atto unilaterale accettato dal governo, dichiarò, diciamo, il Veneto come territorio dove non era più obbligatoria le vaccinazioni, perché i risultati erano così buoni che non ce n'era più bisogno, come accade, bisogna dirlo, anche in altri paesi europei, in tanti paesi ci sono meno obblighi che da noi, sì. Però c'è copertura vaccinale altissima contemporaneamente. La stessa cosa stava avvenendo anche in Puglia, dove abbiamo avuto risultati ottimi. Poi a un certo punto i timori diffusi nella popolazione sugli effetti collaterali delle vaccinazioni hanno fatto scendere il livello dei vaccinati e quest'anno c'è stata un'epidemia, credo, di morbillo piuttosto preoccupante. Di fronte a questa situazione, diciamo, di preoccupazione, il governo ha avuto una reazione scomposta, cioè anziché aumentare il livello di informazione, reagire contro i disinformatori che parlavano dei vaccini come responsabili di ogni tipo di malattie, hanno deciso di rendere obbligatorie non solo le quattro vaccinazioni classiche, quelle che ci sono sempre state negli ultimi vent'anni, ma si è arrivati a 10. Sì. Ma di metter di arrivare a 10. Ovviamente è chiaro che questo atto era il contrario di ciò che lo smarrimento che aveva determinato l'abbassamento del livello vaccinale andava cercando. I cittadini cercavano informazioni, cercavano di essere rassicurati, si trovano però, sì, sotto sanzione. Chiaro il ragionamento, però scusi, lei ha sanzioni ridicole. Perché chi ha soldi potrà pagare la sanzione e mandare comunque il bimbo suo non vaccinato a scuola ad infettare tutti gli altri. Tutto il personale delle scuole non ha l'obbligo di vaccinazione. Quindi quando gli operatori, che ovviamente devono far salire quel livello di vaccinazione, si troveranno di fronte a miriade di eccezioni da parte dei cittadini, non sapranno che rispondere, perché il legislatore, come devo dire, negli ultimi due anni è stato, non solo per questa materia, è stato un disastro da questo punto di vista, al punto che molti stanno preparando dei ricorsi alla Corte Costituzionale. Ecco, ma lei non ha capito, schiera la Regione o è un suo punto di vista, o del Consiglio regionale o della Giunta? Noi abbiamo detto che forniremo a tutte le difese dei cittadini che decideranno di impugnare il provvedimento di legge, gli forniremo tutti i dati che serviranno ai loro avvocati per sostenere le loro ragioni. Ma noi chi? Cos'è, una decisione del Consiglio regionale, della Giunta? Questa è la legge, cioè in Italia qualunque pubblica amministrazione è obbligata a fornire al cittadino che lo richiede tutti i dati di cui è in possesso. Ma quindi, non ho capito, non c'è nessun annuncio da parte allora della Regione Puglia, non c'è niente di nuovo? No, abbiamo solo detto che cercheremo di sostenere i loro avvocati nel momento in cui decideranno di fare ricorso, fornendo loro tutti i dati che saranno necessari per fare le impugnazioni, cosa che facciamo per qualunque cittadino italiano che voglia ricorrere al giudice. È chiaro che è diventata una barzelletta, perché in questa guerra tra favorevoli e contrari, che ovviamente è il risultato disastroso dell'attività del governo. Però scusi, io su questo punto ho qualcosa da chiederle, perché lei dice che c'è una guerra di religione, che è abbastanza evidente, basta guardare quello che c'è sui social, ma non solo, che è stata scatenata però dal governo. Ma non è vero, perché c'era già prima la guerra di religione tra pro e contro, certo, c'erano toni accesissimi, pareri citati. Un gruppo di persone che parla di argomenti scientificamente non fondati, e di fronte alla incertezza della popolazione, anziché dimostrare alla popolazione che quelle sono argomentazioni infondate, gli si dà un obbligo di legge, addirittura vietando l'accesso a scuola per gli asili nido e per le materne, e elevando sanzioni economiche per quelli che non si vaccinano. Però la scuola, il pasticcio lei è garantito. Giustamente, governo in Puglia, parla per la Puglia, ha citato anche il caso Veneto, però c'erano zone tipo la Campania con coperture vaccinali attorno all'80%, anche sotto, per la poliomielite per esempio, a rischio, secondo gli esperti, di riaprire lo spazio per una malattia grave, gravissima, che era stata completamente debellata. Cosa fare rispetto a quello? Ecco, qualcuno si assolve la coscienza in una regione dove c'è purtroppo un tasso bassissimo di asili nido e di scuole materne, e dove l'evasione dell'obbligo scolastico è altissimo, e dove ovviamente, figuriamoci se qualcuno si spaventa di questo tipo di sanzioni, pensano di risolvere il problema del basso livello delle vaccinazioni con queste stupidaggini inserite nella legge. Questo è il punto della polemica di ieri, che però è stato volutamente fuorviato dalla semplificazione che purtroppo inchioda noi tutti ad evitare la discussione, perché il dramma dell'atteggiamento del governo è che, avendo decretato d'urgenza su questa materia e non avendo svolto informazione attraverso, diciamo, i corpi intermedi, questo è stato tutto abbastanza rapido. Però sa perché glielo chiedo? Perché sembra, le chiedo se è una presa di posizione del Consiglio, della Giunta, o se è una dichiarazione sua, perché sembra un po' Emiliano, che si è prima candidato alle primarie, poi cerca sempre comunque di avere un po' di visibilità, diciamocelo, no Emiliano, che quasi che stia certo, un po' lisciando il pelo di questa onda montante dei Novax. In realtà la buttano in vacca, perché questo è un periodo nel quale o appartieni ai Guelfi, ai Ghibellini, la toscanità dell'imprinting politico di quest'epoca ti costringe a stare sempre da una parte o dall'altra e mai a ragionare. Sì, io sono toscano ma mi defilo, se posso, completamente da questa cosa qua. No, mi spiace di averle mancato. No, essere toscani ne vado orgoglioso, per quanto abbia senso essere però orgoglioso. Avete questa caratteristica di schierarvi sempre o da una parte o dall'altra. Noi mediterranei, diciamo così, siamo... Siamo più riflessivi, convintamente sostenitori del dubbio. Comunque non cambia nulla nella scherzi, non cambia nulla nella politica sanitaria, anche sul fatto di vaccinarsi. Lei ha detto ha vaccinato tutti i suoi figli, quindi lei è favorevole, favorevole ai vaccini o anche all'obbligo di vaccinarsi? Però no, ecco, io penso che l'obbligo di vaccinare e quindi l'irrogazione di sanzioni per chi non si vaccina dovrebbe essere limitato a casi assolutamente eccezionali, quando ci sono situazioni, diciamo, di particolare gravità. Conclamata. Quindi lei è d'accordo con quello che ha fatto Zaia, con quello che ha fatto Zaia, l'ha citato, è d'accordo con Zaia su questo? Guardi, Zaia aveva addirittura nella fase precedente eliminato l'obbligo vaccinale con il consenso del governo dell'epoca, che peraltro era il governo Prodi. Quindi evidentemente aveva raggiunto tali livelli vaccinali spontanei che non c'era più bisogno di questa specie di intimidazione, peraltro velleitaria, che era l'obbligo vaccinale. Adesso, di fronte ad un dubbio della popolazione, anziché chiarire il dubbio della popolazione, e questo è il metodo di governo che io contesto, si è avuta una reazione col decreto d'urgenza, irrogazione di sanzioni, divieto di andare a scuola e addirittura assurdità che chi se lo può permettere paga e manda suo figlio non vaccinato accanto a mio figlio, che invece io ho regolarmente vaccinato, e quindi la legge fa ridere da questo punto di vista. È stato chiarissimo su questo. Senta Emiliano, vedremo su questo fronte che succederà. Invece su un'altra questione, il reddito di inclusione, è arrivato il via libera definitivo del governo, un assegno, lo ricordo, tra 190 e 485 euro mensili con chi ha un ISEE non superiore ai 6.000 euro dal 1 gennaio. Lei ha detto questo metodo di governo che non condivide, si è schierato contro per tante cose. Su questa questione qua invece approva la misura che assomiglia un po' al vostro reddito di dignità? L'ho fatto 2 anni fa, questa cosa funziona, ho messo a disposizione questa esperienza del governo 2 anni fa mi fu risposto da Renzi che ovviamente lui non accettava l'idea del reddito di dignità. Adesso il governo Gentiloni ha cambiato idea, io non posso che essere contento, mi auguro. Quindi viene smentita un po' la tesi di Renzi, che era contrario su questa cosa qua, no? Anche perché Renzi è un disincentivo, diceva. Era contrario a questo tipo di strumenti che sono in realtà diffusi in tutta Europa, e invece adesso devo verificare che hanno cambiato idea, non posso che essere soddisfatto. Quindi su questo il governo Gentiloni lo vede autonomo, rispetto molto autonomo rispetto al segretario del PD Renzi? Non conosco bene la ragione per la quale il governo Gentiloni ha pensato di intervenire in questa materia, probabilmente sotto la pressione dell'Unione Europea, perché come ho detto l'Unione Europea sostiene la necessità di strumenti di questo genere, mentre noi avevamo solo la cassa integrazione come strumento di contrasto alle situazioni di difficoltà economica, e non era evidentemente sufficiente. Il governo Gentiloni adesso ha adeguato l'Italia alla civiltà europea. Cambiando strada però rispetto a quello che diceva Renzi. Assolutamente. Senta, un'ultima cosa glielo voglio chiedere, abbiamo poco tempo, devo dare la linea alla borsa, però glielo voglio chiedere, ci sono circa 200 dipendenti delle ex province, ci risulta, pugliesi, che non tanto ex, perché poi adesso si tratterà di capire che fine faranno, che però sono a spasso, cioè risulta che prendono lo stipendio ma non lavorano, perché devono essere, alcuni sono già stati riassorbiti nei comuni, altri devono essere riallocati in regione, è giusto? Perché non lo state facendo? Cioè, paghiamo lo stipendio a 200 persone che non fanno nulla. Vabbè, questo è un altro delirio dello scioglimento delle province, che poi non si sono sciolte più, però sono avanzati i dipendenti della polizia provinciale, noi ce li siamo caricati. Ovviamente non siamo l'unica regione con un corpo di polizia provinciale, perché questa è una decisione che ha preso il Consiglio regionale, e adesso ho 2 dirigenti che oggi ho sciacquato, diciamo, adeguatamente, che stanno litigando tra di loro per l'assegnazione, stabilire se devono avere o meno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Gli uni pensano in un modo, gli uni pensano in un altro. Io purtroppo sono solo il presidente della regione, non posso costringere un dirigente a fare come dico io, questo i cittadini purtroppo. Comunque nel giro di qualche settimana si risolverà questa cosa. Oggi pomeriggio sia servita a fargli capire che devono immediatamente procedere, altrimenti sarò io stesso a denunciarli alla Corte dei Conti, perché non è possibile che quella gente stia lì senza far nulla, solo perché loro due non si mettono d'accordo. Quindi si va verso una risoluzione di questa cosa, mi sembra di aver capito. Così si va verso una risoluzione. L'origine di questo pastrocchio è la riforma delle province. Cioè, no, ma l'importante è che adesso si risolva, però, perché sennò che noi non abbiamo più. No, va bene, per Emiliano, però l'importante è che adesso si risolva questa questione, sennò ci sono 200 persone. Si risolverà, ma lei deve immaginare che io adesso ho 80 agenti di polizia provinciale e sono l'unica regione, credo, con un corpo di polizia ambientale, diciamo così, che deve essere creato da zero, perché c'è stato qualcuno che ha pensato di sciogliere le province prima ancora di cambiare la Costituzione. Fatelo, fatene qualcosa, perché comunque ormai il danno è stato fatto. Tenga conto che fare queste cose da zero, dopo pasticci di quelle dimensioni, può portare due dirigenti ad entrare in conflitto, perché si tratta obiettivamente sciocchezze che noi paghiamo perché siamo in periferia. Grazie Emiliano, buona serata. Grazie, grazie mille. Serata. Borsa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Yourself, you're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady, but you walk around here like you wanna be someone. E allora cominciamo con i vostri interventi. Andrea da Bologna, benvenuto, buonasera. Vai. Buonasera, lei aveva chiesto qualche mezz'ora fa se secondo noi dovevamo intervenire nei luoghi, nei paesi di partenza e per evitare che appunto debbano venire qua gli immigrati. Secondo me assolutamente sì. No, aspetta, Andrea, perché la domanda era leggermente diversa. Ti faccio parlare, poi ti dico qual era la domanda, perché era leggermente diversa. Vai. Beh, forse era più relativa all'intervento militare. Forse. Allora ti dico quello che io ho detto questo. Ho detto, siccome si dice che rispetto a quello che sta facendo Minniti, il problema è stato semplicemente rimandato in Libia, lo dice soprattutto una parte della sinistra, perché lì ci sono i migranti che non si sa come vengono trattati, ci sarebbero dei veri e propri lager, ci sono i trafficanti, eccetera, eccetera. Ora, a parte il fatto che questi accordi prevedono la presenza dell'ONU, dell'UNHCR in Libia, ma lasciamo stare. Io ho chiesto, l'Italia dovrebbe intervenire in Libia, dovrebbe intervenire in Niger o in Egitto per far sì che questi siano paesi democratici dove i profughi vengono trattati in maniera corretta come facciamo noi in Italia, oppure è un problema non italiano questo qua? Questa è la domanda che ho fatto. Allora, effettivamente, diciamo l'ultima parte, è chiaro che non è un problema solo italiano, è un problema mondiale e secondo me tutti i paesi dovrebbero, i paesi europei sviluppati dovrebbero di concerto, più o meno di concerto, cercare di fare in modo che in quei paesi si possa vivere in modo dignitoso. Certo, è chiaro, ma che una cosa perché altrimenti la teoria che passa è che tocca all'Italia andare a ritroso sul percorso che fanno i migranti, i richiedenti asilo, i profughi che partono da chissà dove e tappa preoccuparsi di come sono, perché questo è impensabile, inimmaginabile, non lo può fare nessuno, ma non ha neanche senso che lo faccia un paese, cioè deve essere una cosa che naturalmente è concertata con tutti quanti i paesi europei più sviluppati. Detto questo, ci sono delle organizzazioni che si occupano comunque dello sviluppo di aree specifiche, ma non operano su un paese intero, però portano avanti dei progetti di lavoro in certe aree e io in modo assolutamente da volontario ho fatto anche un piccolo aiuto, perché sono convinto di questo proprio, cioè nel senso che deve potersi sviluppare anche in economia locale. È chiaro che se uno fa un progetto piccolo se ne può occupare anche una sessione privata del singolo paese, ma se si prende in esame il paese intero e un'area così grande di quei paesi, è chiaro che non lo può fare un singolo paese, deve farlo l'Europa intera. Ecco. Va bene, grazie, buona serata Andrea. Enzo da Torino, vai. Grazie, buonasera. Buonasera. Per rispetto a questo ultimo interrogativo, dico che non solo l'Europa, credo tutto il mondo debba interessarsi dei problemi dell'Africa, perché non c'è solo un rapporto. Di certo l'Italia non può fare più di quello che ha fatto, secondo me ha fatto già molto nel Mediterraneo, spero che non vada nella terra africana, perché altrimenti non so come andranno le cose. Però io volevo intervenire sull'affermazione della Gabanelli. Sì. La Gabanelli cosa ha detto? Ha detto che non si può pensare di integrarli tenendoli tutto il giorno, 24 ore al giorno, a vegetare senza dar loro niente. Sono veramente d'accordo con questa affermazione, oltretutto io ho avuto un'esperienza di due mesi all'interno di una cooperativa dove insegnavo lingua 2. Ero l'unico in una comunità, in una casa alloggio per 26 migranti di due etnie, una asiatica, pakistana e una africana, maliani, in cui che avevo rapporti con questi ragazzi. Sono riuscito poi a portare nell'aula, perché da solo non potevo seguire 26 persone, e a portare altre tre signore che mi hanno dato una mano, ma dopo due mesi ho mollato perché non ce la facevo, oltretutto sono venuto a conoscenza delle 35, dei 35 euro giornalieri, dei 2,5 euro per il pocket money. Mi chiedevo sempre tutti gli altri soldi dove vanno a finire. Oltretutto era il mese di ottobre del 2015, una sera c'è stata anche una serata musicale per i profughi e hanno raccolto le offerte per i profughi. Allora quindi mi sono indignato di questa roba. Sì. 35 okay. euro, con 35 euro, seguendo le sue trasmissioni, si potrebbero fare tante cose, cominciando prima di tutto dall'istruzione, prendendo delle persone adesso non è che si possa fare questo. Miracoli con 35 euro, comunque è chiaro il senso, è chiaro fare, il senso, guardi, del suo intervento. Enzo, grazie, guardi. Grazie mille, grazie, è chiaro quello che vuol dire. Sentiamo cosa ne pensano anche gli altri ascoltatori. Stefan da Piacenza, benvenuto, vai. Buonasera, grazie. Io telefono per l'intervista al presidente Emiliano. Sì. Se non ho capito male, ha detto che il pagamento della sanzione permette poi l'istruzione del ragazzo a scuola. Ma lui ha detto, e quindi si lamentava del fatto che se uno è ricco può permettersi di pagare la sanzione e fare ciò che desidera. Sì. Io ho letto il contrario, ho letto che la sanzione non esclude l'obbligo vaccinale, quindi va pagata la sanzione. No, infatti no, però bisogna vedere di quale livello scolastico parliamo, perché per gli asili nidi o le materne è condizione necessaria avere i certificati di vaccinazione per poter iscrivere i bambini. Per la scuola dell'obbligo, a partire dalle elementari, paghi la sanzione, però il figlio lo puoi comunque iscrivere, perché è scuola dell'obbligo. Questo è il compromesso al quale si è giunti all'interno del governo, col ministro Fedeli che era contrario a lasciar fuori dalla scuola bambini che magari non erano in regola con tutte le vaccinazioni. Questo è quello che diceva Emiliano. Stefan, non so se... Ah, ok, quindi la logica avrebbe portato a qualcosa di diverso. Ok, allora ho capito. Va bene, grazie, grazie anche a te. Andiamo sul traffico, 800 24 00 24, torniamo tra pochissimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. bredaportoni.com vi presenta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, riprendiamo con i vostri interventi. C'è Massimo che chiama da Milano. Vai Massimo, benvenuto. Ciao a tutti. Il mio intervento è riferito all'Africa, che reputo che sia un grosso errore dover pensare solo al petrolio senza pensare ad andare a estrarre dell'acqua, che potrebbe servire benissimo. Cioè, abbiamo un Israele che fa diventare il deserto un giardino, e noi che siamo capaci di desertificare l'Europa. Quindi, a mio avviso, se si potesse e se avesse la voglia di andare a perforare per cercare dell'acqua e mettere in condizioni quella gente di coltivare e di poter produrre dell'alimento. Cioè tu dici, una volta che stiamo lì con delle trivelle, anziché tirare fuori il petrolio che serve a noi, tiriamo fuori l'acqua che serve a loro. Sì. Cioè, e oltre il resto internet ha insegnato loro che i nostri cani mangiano meglio di loro. Non ho capito, Massimo, scusa, non si è capito bene. I nostri cani, i nostri gatti, se loro vedono internet, le pubblicità nostre ormai sono sul pet, e il pet è quello che tira, il mangiare dei cani. Presentato come presentato, loro vedono che i nostri cani, i nostri gatti mangiano meglio di loro. Quindi se fossero nelle condizioni di poter mangiare, bere e vivere più dignitosamente di quanto sì, però fanno... scusa, non ho capito, i progetti di cooperazione è giusto, si sono spesso fatti magari finanziati poco, meno di quello che si dice quando si dice aiutiamoli a casa loro, poi si fa poco. Però questo cosa vuol dire? Cioè, fino a che punto l'Italia dovrebbe preoccuparsi di quello che avviene in Libia o in Niger? Noi abbiamo giù la SNAM, l'ENI, abbiamo gente che va a perforare perché le serve il petrolio. Allora, come capita da noi ai paesi che quando ti fanno una strada poi ti fanno i giardinetti, allora vai giù, vai a cercare il petrolio e poi vai a scavare anche per poter utilizzare dell'acqua, perché è la fonte, cioè è un elemento che è indispensabile, cioè non puoi farne a meno né nella coltivazione né nella sopravvivenza. Quindi vai a cercare il petrolio, ti obbligo a cercare anche dell'acqua. Cioè lei lo metterebbe proprio nei contratti grandi aziende. Bravissimo. Però quello che si sta facendo in questo momento, per esempio l'accordo che è stato presentato, di cui ha parlato anche Minniti, prevede proprio questo, cioè che ci siano una serie di interventi per tutte le città libiche, per esempio, no? È stato detto a ogni città di presentare un progetto che venga finanziato, servizi di vigilanza, depurazione delle acque, depurazione dell'acqua del mare, c'è di tutto, si sta facendo questo. Io quello che ho chiesto su Minniti è se bisogna fare di più, se bisogna preoccuparsi di quello che accade all'interno della Libia, come dice per esempio una parte della sinistra che critica Minniti, perché dicono ha ributtato la palla dall'altra parte fregandosene di quello che succede in Libia. Più di quello che facciamo, cosa dovremmo fare? Questa è la domanda che io faccio agli ascoltatori e anche a te, Massimo, visto che hai tirato in ballo questo argomento. Non lo so. Anche a livello culturale, cioè l'ignoranza poi permette poi che si possa sfruttare la popolazione e se la si possa ridurre nelle condizioni in cui è. Quindi sicuramente interventi per educarla, per farla progredire. Grazie Massimo, buona serata, ciao. Enzo da Torino, vai. Sì, buonasera. Ascolti, io sono nato a Messina. Purtroppo non capisco che l'argomento nel frattempo era passato sugli immigranti. Sì. Volevo solamente dire questo. Allora, Messina, che è stata distrutta nel 1908, come tutti sappiamo, con tutti i terremoti che ci sono stati successivamente, parlo negli ultimi 20-30 anni, chissà perché non cade mai niente. Perché lì le case... Però scusa Enzo, ci sono stati terremoti a Messina negli ultimi 20 anni? Ma sì, che... Allora, a Messina, a Reggio Calabria, in quella zona lì, che è una zona sismica di alta pericolosità, i terremoti ci sono sempre. Il problema è che se le case vengono costruite bene, rispettando quelle che sono le normative antisismiche, le case non vengono giù. A Ischia, come diceva lei in apertura all'inizio, nonostante il cemento, il materiale fosse di buona qualità, ma se non sono state rispettate le normative, è chiaro che sono venute giù. Sì, non c'erano quei tiranti, quelle catene, quegli interventi che si possono fare su palazzi già costruiti, che però danno una garanzia antisismica migliore, maggiore. E questi erano. E invece lei dice a Messina questo è stato fatto. Ma a Messina normalmente viene fatto. Tengo presente una cosa, io vivo a Torino da 51 anni, sono nato a Messina, sono venuto via da lì a 14 anni. Ma che notizia ha però di Messina adesso lei da un po' di tempo a questa parte? Ha notizie fresche su questo? Sì, è una città dove non succede niente. Tenga presente, lei lo sa bene, che a Messina un'altissima percentuale degli edifici costruiti sono di edilizia popolare. Cioè a Messina di edilizia privata, non so, su 100 palazzi, un'alta percentuale è di edilizia popolare. E questo per dire che anche nel pubblico, raramente, questa è un'eccezione, si possono fare le cose per bene, cioè, capisce cosa intendo dire? Poi un'altra cosa, voglio dire, per esempio, io abito in un condominio a Settimo Torinese, provincia di Torino, sì. Noi nella nostra polizza assicurativa abbiamo l'assicurazione contro i terremoti. Va bene. Che è una cosa che dovrebbe essere obbligatoria per legge. Questo nel suo comune tutti ce l'avete, cos'è obbligatoria? Io sto parlando del nostro condominio. Dei casi Enzo, grazie, dei casi positivi ci sono, ha fatto bene a dirlo, la polizza è un'altra delle cose, ma meglio ancora sono gli interventi che evitano il crollo, capite? Perché è quello che bisogna fare. Però torno alla questione degli incentivi. Probabilmente gli incentivi che ci sono stati fino ad oggi, vediamo se quelli nuovi dell'ultima legge di bilancio fino all'85% basteranno per spingere le persone comunque a fare un investimento che è di alcune decine di migliaia di euro, e bisogna vedere se tu da parte ce l'hai 5, 7, 8, 10, 15 mila euro per poter mettere in sicurezza il tuo edificio, senza considerare che in un condominio devi mettere d'accordo tutti, e basta che uno, un anziano che ha una pensione al minimo, un esodato che non ce l'ha questi soldi e i lavori non li può fare, blocca tutto. Ecco perché la provocazione è: perché questi incentivi non li portiamo al 100% e la facciamo finita, in modo che questi interventi si fanno, punto e basta. Chi non li fa, casa requisita, o peggio per lui, perché a questo punto lo Stato te li rimborsa fino all'ultimo spicciolo. Ripeto, la mia è una provocazione, ma siamo arrivati all'85%, tantissimi soldi dello Stato vengono spesi male, lo sappiamo benissimo, questi sarebbero spesi ultra bene, e quindi perché non farlo? Roberto da Parma, vai. Roberto, salve. Ecco, sì. Io niente, volevo dare un piccolo contributo per quello che è il mio pensiero. Io sono d'accordissimo sul fatto che ci sia l'obbligo sui vaccini per i bambini, perché mi sembra che lo scontro ormai sia arrivato sui media, su Facebook, a un livello tale per cui un po' di chiarezza ci voleva. E anche perché sento parlare, ho un'amica parrucchiera, senza elevare a livello, senza voler mettere mano a livello culturale delle parrucchiere, che sarà molto diversificato a seconda dei casi, però la sento parlare come un primario degli infettivi, mi sembra un po' strano tutto ciò, e mi è sembrato molto strano, devo dire, l'intervento di Emiliano. Perché una contraddizione come la sua la trovo quasi dalemiana. Da una parte fa... Dalemiana? Che vuol dire dalemiana? Di D'Alema, mi ricorda molto D'Alema. Mi spiace, li metto molto vicini, forse per l'origine, forse per la posizione politica di ulteriore sempre... No, mi incuriosiva l'idea che ci sia una locuzione, un'espressione come la contraddizione dalemiana. È una mia piccola così... Ma vediamo, perché magari può darsi che sia una cosa... Chiamiamola Crusca... Cioè, chiediamo se si può molto inserire. Strano, sì. Il pensiero di D'Alema, da una parte fa vaccinare i figli, lo trovo giustissimo, dall'altro però tutta questa manfrina contro il governo. Il governo si è messo una sanzione, la sanzione come per tutte le sanzioni indica un problema, una soglia di attenzione, perciò certo che poi che ha i soldi potrà comunque fare le cose, ma la sanzione di per sé indica un problema, un livello di attenzione del problema, perciò ho trovato scandaloso il pensiero di Emiliano. È vero che su una cosa, Roberto, grazie, Emiliano è in contraddizione, per quanto uno può essere favorevole ai vaccini e al fatto di vaccinarsi e dire questo decreto è scritto male, però è un po' un sofisma, perché se tu sei favorevole al fatto di vaccinarti, cosa ti toglie che venga inserito l'obbligo di vaccinarti? Cioè io per esempio le mie figlie le ho fatte vaccinare fino all'ultimo vaccino, non sono contrario all'obbligo perché l'ho già fatto, quindi dove sta il problema? Se tu sei favorevole al vaccino, l'obbligo di vaccinarti non ti cambia niente, e quindi è vero che in questo senso c'è una contraddizione dalemiana, come hai detto tu, un sofisma, chiamiamolo così. Antonio da Treviso, vai. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Niente, io volevo parlare dei profughi, perché abito qui in una periferia di Treviso, cioè un paese fuori Treviso, 30 chilometri, e ci sono molti, c'era un'ex caserma, è stata sistemata un po' alla buona. Ci sono più di 200 profughi, tutto il giorno senza far niente, su e giù per la strada, bigolenare, cioè, io non so. Bisognerebbe fargli fare qualcosa, questo lo dicono tutti. Qui da noi ci sarebbe tanto di quel lavoro da fare, sì, che è una roba incredibile. Perché si potrebbe vendemmiare tutta l'uva a mano invece che rovinarla con le macchine. Sì. E solo che il problema qual è? Che dovrebbe esserci semplificate le cose, di poter prendere sta gente. E no, perché ci vuole qui, ci vuole là, diventa impossibile. Allora Antonio, ci sono, grazie, ci sono degli, c'è la possibilità in Italia, esiste una legge per chi riceve un'assistenza, un sussidio, un sostegno, di poter essere impiegato, però si fa su base volontaria, in lavori socialmente utili. Poi di lì a farlo, ha ragione lei, in molti casi non si fa ed è sbagliato. GR, torniamo tra poco. Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Dal 4 settembre vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 mattino, da lunedì 4 settembre, tutti i giorni alle 6.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I thought I had it all together, but I was led astray. You walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind. When love's so hard to find, your feelings change. Questa era la banda dell'esercito libico che ha accolto il ministro degli esteri Boris Johnson in visita in quel paese. Speriamo che siano più bravi a governare che non, o a soprattutto a rispettare gli accordi, che non a suonare, perché l'inno era completamente strafalcionato e stravolto. 800 24 00 24, siamo qua fino alle 20, cari ascoltatori, tra poco riprenderemo con i vostri interventi. Intanto vi faccio sentire l'endorsement di Milena Gabanella, Gabanelli, icona della sinistra ma anche del Movimento 5 Stelle, il ministro dell'interno Marco Minniti, e poi la sua affermazione: l'apertura totale delle frontiere non è un leghista a parlare, tenetevi forte, ma è lei, Milena Gabanelli, equivale alla fine del welfare in Italia. E le anime belle che parlano di frontiere aperte, ignorando che la frontiera aperta vuol dire fine del sistema di welfare. È questo che vogliamo? È un problema come tutti gli altri, la gestione dei flussi. Non è fatto né di buoni né di cattivi sentimenti, va solo governato con competenza. È lei che è cambiata, Milena Gabanelli, che è cambiata, oppure lei è più lucida di tante altre anime belle che la seguivano in passato? 800 24 0024. Intanto vi faccio sentire anche il sindaco di San Germano Vercellese, che vuol multare fino a 5.000 euro chi ospita profughi e non lo comunica al comune, nel suo comune. Il bene di un privato ricade negativamente sulla collettività e di conseguenza il bene del privato, se vogliono fare del bene, lo fanno facendo dei versamenti a favore di queste persone, possono mantenere con i loro soldi in alberghi e possono fare del bene e lavarsi la coscienza. Allora, perché lei dice i privati che vogliono aiutare, se vogliono aiutare, paghino di tasca loro e diano dei soldi per i profughi, ma ci può anche essere il caso, caro sindaco Rosetta, che ci sia qualcuno, un pensionato al minimo, uno che non ha lavoro, che vuole affittare magari una casa in più, una seconda casa, una stanza a un profugo, la prefettura gli dà un rimborso spese, è una piccola integrazione di reddito, se lo vuol fare, perché... non gli vuol consentire questa possibilità. Mi piacerebbe sentire che cosa risponde la sindaca, forse più tardi la sentiamo. 800 24 0024. Intanto voglio sapere anche che cosa ne pensate voi. Allora, è con noi il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Buonasera. Buonasera. Allora, non so, buonasera Rienzi, non so se hanno messo Crazy dedicato, diciamo, alla vostra ultima battaglia, che è un po' può sembrare un po' strana, perché l'ultima vostra battaglia è contro un fumetto, contro Corto Maltese. Sì. Perché avete fatto un esposto al Garante perché fuma Corto Maltese. Sì, beh, non è la nostra ultima battaglia sul tema, perché ne facemmo un'altra contro Tex Willer quando, mi pare, il Corriere della Sera, se non ricordo, sì, cominciò a pubblicare i racconti bellissimi di Tex Willer, che stava sempre con questa sigaretta in bocca, col fumo che usciva dalla sigaretta, e tutti i ragazzi che leggono questi fumetti, sia Tex Willer che Corto Maltese, sì, sono portati a ritenere che il fumo sia una cosa bella, una figata, una cosa legata alla forza, legata alla capacità dell'uomo di fare delle cose anche superiori al normale, eccetera. Ed è una pubblicità al fumo, anche occulta, non ad una marca di sigarette, ma certo, al fumo. Quello... Ed è vietata dalla legge, cioè c'è una legge che la vieta. Quindi noi ci domandiamo perché dobbiamo continuare a vedere nei film questi attori che prendono il pacchetto, accendono davanti alla telecamera, alla camera. Però sono film vecchi, Rienzi, perché nei film nuovi c'è meno questa cosa qua. Tra l'altro, adesso è di meno, sì, adesso però... è di meno, perché c'è tutto un movimento. Però come si fa a, cioè, Corto Maltese, Tex Willer, no? A parte che il pubblico delle persone che legge Corto Maltese, non so se sono proprio giovanissimi, forse sono più adulti, sono già vaccinati, quindi magari si lasciano meno. Ci sono però 80.000 morti all'anno per le cause direttamente o indirettamente collegate al fumo. E per Tex Willer, il disegnatore con cui avevamo contatti, molto garbato, gentile, simpatico, pensò di togliere la sigaretta. Punto e l'ha fatto? L'ha fatto? E certo, l'ha fatto, e nei numeri successivi l'ha fatto, cosa che si può fare anche per Corto Maltese. Non anche perché se no non glielo fate uscire, non glielo fate pubblicare, perché se il ricorso l'avete fatto anche su Tex Willer, come andò a finire? Sì, no, poi dopo loro tolsero la sigaretta, quindi il ricorso è finito, c'è stato l'effetto. Ma non sembri una cosa di poco importanza, perché guardate che adesso lo vediamo soprattutto con il gioco d'azzardo, no? Ci sarebbe un divieto anche di fare pubblicità al gioco d'azzardo, basta aprire una qualsiasi rete televisiva e ci sono o bellissime donne, o soldi che cadono a pioggia, o premi che vengono dati da questi gestori dei giochi a tutti i giovani. Però un conto è la pubblicità, Rienzi, un conto è la pubblicità, e quella non si può fare né dell'uno né dell'altro, né dell'azzardo né del fumo. Però un romanzo a fumetti come Corto Maltese, che descrive la vita tra l'altro di un marinaio, un mezzo pirata, come si fa a raccontare quella storia lì, stravolgendo quello che è? Perché il marinaio fuma, beve, fa quelle cose lì. Anche la pubblicità che fa Totti con le sue battute sul gioco d'azzardo e sul Gratta e Vinci è la stessa cosa. La pubblicità, ma no, grave, però la pubblicità si può evitare, e infatti in certi orari la si evita, si dovrebbe evitarla forse di più, per il fumo non esiste più, ma una storia narrata, un racconto, un film, dovremmo abolire anche Maigret, il commissario Maigret, Sherlock Holmes che aveva la pipa. Beh, dipende. Le ho dato un'idea. Sì, mi ha dato un'idea, ma dipende dai contesti. Allora, se noi dirigiamo un fumetto a una grande massa di persone che non sono quelli che vedono oggi in televisione Maigret, che sono pochi e sono anziani più che altro, se noi la dirigiamo e gli facciamo una grande pubblicità e la facciamo facendo vedere questa sigaretta in bocca, eccetera, facciamo un danno. Adesso è anche un modo, attenzione, non tanto per far sequestrare il fumetto, ma per lanciare un messaggio, perché noi purtroppo, non avendo le televisioni in mano, sì, non possiamo fare una contro pubblicità, non possiamo andare in TV e dire: ragazzi, badate, anche se Corto Maltese ha la sigaretta, quella fa grave danno alla salute. No, allora, fare questo esposto, il fatto che voi ci fate un programma in questo momento, domani usciranno i giornali e diranno questa cosa, la gente legge, i giovani leggono e riflettono, e se dicono: ma questi sono matti che fanno questi esposti, poi riflettono, noi abbiamo dato i dati sui morti da fumo, sì, e ma cominceranno il fumo... a pensare sì. forse è meglio evitare di fumare. Rienzi, ma il fumo è in calo, è ancora in calo o avete registrato un aumento di nuovo? No, l'ultimo anno è in aumento specie per le donne ed in aumento soprattutto nelle fasce giovanili, purtroppo, perché sì. si fanno ancora troppe campagne che dicono non fumare, non fumare fino a 18 anni, attenzione, sono campagne sì. fatte anche da associazioni meritevoli, meritorie, come voler dire a 18 anni un giorno fuma quanto te pare perché tanto non è vietato. No, vabbè, però io su Corto Maltese, cioè a parte ho degli ascoltatori che scrivono, ho letto, stupidaggio, ho letto da tanti text, non ho mai fumato, non mi è mai venuta voglia di fumare, che ovviamente non c'è questo automatismo, voi dite che ci può essere un'induzione, è vero, però sicuramente non c'è un automatismo, no? Assolutamente. Però cioè, qualche, allora qualche non dovremmo più raccontare certe storie, no? Le storie... Aspetta, quanti ascoltatori avete voi nella vostra trasmissione? Non lo so, tanti. C'è un altro che dice, allora però dovrebbero essere anche vegani Tex Willer e Corto Maltese, oltre che non tabagisti. Come facciamo? Ne stiamo parlando, stiamo sollevando il problema, i vostri ascoltatori rifletteranno e noi abbiamo raggiunto l'obiettivo. Però Corto Maltese, anziché essere un dannato, diventerebbe un... perbenista, un'altra cosa, un'altra cosa. Senta Rienzi, prima di salutarci un'ultima cosa, sì, perché comunque questa cosa andava raccontata, avete appoggiato anche insieme a Michele Emiliano, abbiamo parlato poco fa col presidente nella prima mezz'ora, il ricorso antivaccini, no? Perché? Non antivaccini, anti-obbligo. Ricorso contro 10 vaccini sì. obbligatori quando in Francia sono 3, in Danimarca e Svezia sono 0. Sì. Noi abbiamo preso un impegno nel 2014 con le case farmaceutiche in America, con Obama, il ministro Lorenzini, il direttore generale Guerra, a essere l'avanguardia dell'acquisto dei vaccini dalle case farmaceutiche, e ne abbiamo fatti 10 obbligatori. Pensa che vi fosse alcuna ragione valida. Però, è una cosa assurda, cioè, sta mettendo in crisi le ASL e le scuole. Quindi lei, contrariamente a Emiliano, non è favorevole nemmeno al fatto di vaccinarsi, perché Emiliano dice io sono per vaccinarsi. No, non ho detto questo, ho detto noi siamo, ha detto che non ce n'è bisogno. Ha detto che non ce n'è bisogno. Ho detto che ce n'è bisogno solo per alcuni, massimo 3. E devono essere monovalenti. Ma cioè, chi ve l'ha detto? Cioè, avete consultato degli esperti che vi hanno detto che c'è bisogno di 3 e non di altri? Quindi il governo ha agito senza consultare esperti? No, il governo ha agito perché è sotto pressione delle lobby delle case farmaceutiche. Il sommare insieme, poi il problema è che devono fare i vaccini monovalenti, cioè singoli, perché sommare insieme i vaccini si va a sommare sostanze, metalli pesanti che diventano un eccesso per il corpo del bambino. Quindi noi siamo per i vaccini monovalenti, cioè singoli, non accoppiati. Anche se dovesse costare di più al sistema sanitario? Perché no, farne uno per volta? No, però bisogna convocare le persone 20 volte e quindi c'è un costo maggiore di organizzazione, quantomeno. Niente affatto, costa lo stesso perché si fanno in momenti differenziati e chi li vuole fare insieme li fa insieme. Invece loro non ti danno proprio i singoli. Lo sa che per unire due vaccini l'ex ministro De Lorenzo prese una mazzetta di 600 milioni da una casa farmaceutica? Sì, però c'è la corruzione, ci sono ristoranti che pagano il pizzo, però non per questo non vado più a cena fuori. Sì, ma qui parliamo di vaccini, cioè di sostanze chimiche che vengono iniettate nel corpo dei bambini, e uno prende 600 milioni per iniettare due sostanze chimiche insieme, sommate, ci deve essere una ragione per pigliare questi soldi. Perché una casa farmaceutica paga questi soldi? Perché il nostro governo si va a impegnare negli Stati Uniti davanti a Obama e alla grande casa farmaceutica produttrice dicendo non vi preoccupate, noi saremo all'avanguardia, e questa casa investe miliardi in Italia adesso? Non vi sembra una cosa un po' poco? Va bene, poi del resto di queste cose abbiamo già parlato moltissimo. Grazie Carlo Rienzi del Codacons, buona serata, grazie per essere stato con noi. Buona serata. Arturo da Napoli, prima della borsa in un minuto, vai. Buonasera. Io chiamo a proposito della domanda che lei poneva in maniera anche accurata sul fatto che l'Italia debba o non debba andare in questi paesi, no, subsahariani. E allora guardi, giusto velocemente, lei mi sembra un ottimo giornalista, però mi permetto di darle così un input. Lei si dovrebbe anche fare due, un giro, anche due. Allora, si faccia un bel giro in Niger, in Mali, giusto per vedere com'è, in Sud Sudan, no? E scoprirà che noi già ci siamo lì, l'Italia già c'è e c'è tutto il mondo, ci sono gli americani, sì, ci sono i cinesi, ci sono, sì, i francesi, come erano belli quei presidenti, quello italiano e quello francese con la cravatta. Allora la domanda gliela rigiro, Arturo, l'Italia, sì, deve fare più di quello che fa adesso? L'Italia per non quanto dovrebbe riguarda... fare quello che fa già, non dovrebbe anche fare troppo, sì, lei, la Francia eccetera, e guardi, non se ne parla, ci sono delle inchieste, no, sull'ENI. Sono stati assolti, pagato, quelli lì, sono stati assolti su quella questione della tangente, sì, sono stati assolti. La leva in Francia, in Niger, sì, l'energia francese è fatta con l'uranio del Niger, non pagano. Le dico una semplice cosa, per me la soluzione è un'economia più equa, sì, basterebbe pagare, no, ma questo è giusto, è possibile, deve, questo è possibile qua. O al limite, guardi, se è impossibile questa roba qui, però scusi, se l'economia qualcuno... più equa è tutto un problema dell'Italia, cioè è tutta colpa dell'Italia, dobbiamo fare tutto, certo, noi, o è un, cioè, un problema mondiale? Sarebbe impossibile. Sa quale potrebbe essere un'altra soluzione? Non fare più niente, qualcuno l'ha teorizzato, non andare in Africa, solo che l'Africa, sa, l'uranio c'è in Niger, c'è in Namibia, in altre parti del mondo non c'è, il petrolio, il gas stanno tutti là, e allora basta. Questo, come si dice a Napoli, è il cavallo di ritorno, egregio dottore, capito? Questa gente che viene qua è il cavallo di ritorno per un'economia non equa, tutto qua. Sì, ma sicuramente c'è anche questo, l'economia non equa, la responsabilità dei paesi occidentali, l'imperialismo, il colonialismo, tutto, sì, tutto bene. Non sono falsità. Quindi noi, basta, però, scusi, vedere, oltre a fare meno i nostri interessi in Africa, come dice lei, io mi chiedo, dovremmo aprire le frontiere, cioè andare in Libia a prenderli, andare in Niger a prenderli e portarli qua per queste, no, colpe che abbiamo avuto in passato? No, no, no, no, è una cosa di lungo respiro, probabilmente di lungo tempo ci vuole. Lì chiaramente bisogna soccorrere quelli che vengono in mare eccetera, e poi ci vuole tempo, bisogna investire i soldi che l'Europa dà in quantità immense all'Africa, che servono solo ad alimentare la corruzione. Se lei va in quei paesi vedrà alla TV nazionale che c'è la fila dell'Italia, della Francia, della Canada, di tutto il mondo, sì, per dare soldi a questa gente, al presidente nigerino, al presidente sud-sudanese. No, questo è vero, ci sono interessi fortissimi, assolutamente. Soltanto una corruzione che non è una cosa a costo zero, capisce? Perché dice, vabbè, abbiamo buttato dei soldi. No, io ho là solo paura che andando dietro a questa linea non vada mai bene niente, non va bene perché l'Europa in passato ha sbagliato, non va bene, no, dare i soldi, tempo, scusa Arturo, tempo, non sa, va bene dare tempo i soldi all'Africa perché li prende la corruzione, non va bene quello che fa Minniti perché rimanda il problema solo in Libia, non va mai bene niente, e allora io dico, allora incrociamo le braccia, stiamo qua a guardare quello che succede, questo che domando agli ascoltatori. Grazie comunque Arturo, buona serata, borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Allora, cari ascoltatori, riprendiamo da voi con Franco che ci chiama da Trieste. Vieni Franco, benvenuto. Buonasera a tutti. Ma solamente per dire che queste campagne di proibizionismo così, che raggiungono l'assurdità di togliere l'accordo maltese la sigaretta o di togliere la Tex Mide la sigaretta, mi sembrano veramente delle esagerazioni. Stiamo andando su, vorrei dire, una mancanza di democrazia? Un voler imporre un qualcosa, un voler togliere qualsiasi tipo di possibilità. Beh, sì, più che la democrazia, sì, persone, sì, no, no? Prego, prego, sì. Cioè, bisogna informare le persone delle cose che fanno male, di cosa non fare e di perché non farlo. Andare addirittura a togliere certi tipi, cioè andare a infierire su delle letterature, su delle cose che hanno una storia, che hanno una logica, secondo me è veramente un'esagerazione. Uguale la storia per i vaccini. Questo obbligo di vaccinare e non lasciare libertà alle persone di fare le cose, imponendo un certo tipo di di volontà dall'alto, è una cosa che è veramente assurda. Bisogna informare, rendere partecipi e poi lasciare la libertà e la consapevolezza di fare le cose come devono essere fatte nella maniera giusta. Però scusa, Franco, sarai d'accordo su una cosa, te lo chiedo, sul fatto che c'è però una distinzione tra la questione del fumo, abbiamo parlato della campagna del Codacons contro Corto Maltese, può essere ritenuta una stupidaggine perché uno non inizia a fumare per via di Corto Maltese, però quando si parla per esempio di immagini shock o di vietare la pubblicità sul fumo, stiamo parlando di informazione diretta a singole persone che possono scegliere o non scegliere di fumare, cavoli loro. Sui vaccini la questione però è diversa perché riguarda la salute mia, la tua e quella di tutti, cioè il rischio di trasmissibilità di queste malattie. Lì la questione dell'obbligo si pone in termini diversi, sono due mondi diversi. Certo, lei sa che comunque se passiamo al discorso sui vaccini, io ho due figli, che sono stati uno di 5 e uno di 11 anni, che sono stati vaccinati entrambi, e comunque io sono un free vax, cioè nel senso che secondo me deve esserci la libertà di scelta, perché lei sa che l'imposizione di farmaci è un trattamento sanitario obbligatorio, il cosiddetto TSO. Vabbè, TSO, dai, adesso siamo arrivati al TSO. Sì, è un TSO, scusa. Io però non capisco, scusa, te lo chiedo così me lo spieghi. Perché, cioè, che problema avete con l'obbligo del vaccino, voi che siete comunque favorevoli al vaccino? Cioè, perché io capisco uno che è contrario, ma come dice Emiliano, io sono favorevole, però sono contro l'obbligo. Cosa ti cambia? Mi cambia perché non è giusto che venga fatta un'imposizione, una somministrazione di farmaci obbligatoria quando non c'è in atto una vera propria epidemia. E allora perché hai fatto vaccinare i tuoi figli tu, se non c'era in atto un'epidemia? Intanto io li ho fatti vaccinare con 3 vaccini. Sì. Innanzitutto, e non con i 10 che ci sono. Cosa primaria, è già questa una cosa. Sì, però il motivo per cui te lo dico io, il motivo per cui l'hai fatti vaccinare è che ci si vaccina non perché c'è un'epidemia, ma per evitare che accada. Questo ma si fa prima, non ci vuole l'epidemia per vaccinarsi, perché quando c'è l'epidemia è già troppo tardi. Tu non la eviti, perché le persone che vengono, i bambini che vengono vaccinati sono portatori sani e sono infetti per 4 settimane. Quindi la cosa non ha nessun senso. E poi tu vaccini i tuoi figli contro 10 cose e magari di queste 10 cose tuo figlio già per 3 è immune perché è stato immunizzato. Allora, prevediamo prima di vedere se gli utenti che devono essere vaccinati sono già stati immunizzati, hai capito? No, ma come assolutamente, Franco, poi su questo ognuno poi dice tranquillamente la sua, come è sempre stato. Io semplicemente faccio una distinzione, tu hai messo insieme due cose, le campagne sul fumo e quelle sui vaccini sono due mondi, secondo me, molto distanti. Comunque, grazie Franco, buona serata. Roberto da Piacenza, Roberto, vai. Sì, sono Roberto, faccio il medico, sono specializzato in geriatria. Sì. Volevo dire, scrivere due considerazioni semplici. Intanto ricordo quando studiai negli anni 80 la microbiologia, eccetera, ci spiegavano i nostri professori che le potenzialità del nostro sistema immunitario sono praticamente infinite. Se adeguatamente stimolato, il nostro sistema immunitario riesce a produrre anticorpi contro batteri, virus e qualunque altro tipo di antigene sul quale si può costruire una immunità. Quindi la visione era ottimistica, per cui un sistema immunitario di una persona sana, se stimolato, produce anticorpi contro le malattie. Un sistema immunitario che serve anche durante le infezioni in atto. Sì. Ci ricordiamo che qualsiasi antibiotico potentissimo non ha nessuna efficacia se il sistema immunitario non è adeguato. Alzo le mani, Roberto, perché io non sono un medico e quindi non so cosa replicare a quello che dici. Faccio un'altra considerazione anche di tipo economico, no? Prima sentivo dire che c'è un business dei vaccini, per cui noi siamo, lo Stato è sotto pressione dalle aziende, dai big pharma. Questo è quello che diceva Rienzi. Esatto, questa qui però secondo me è una mistificazione, perché il vero business non sono i vaccini ma sono le malattie. Questo è un fatto storico, cioè ammalarsi è un business per le questo è stato detto, in effetti è un argomento che si ritorce contro, perché forse per le case farmaceutiche sarebbe meglio che tanta gente si ammalasse e poi avrebbe bisogno delle loro medicine. Questo è anche un argomento. Grazie Roberto, anche a te. Dove vado? Con Lorenzo, che chiama da Roma. Lorenzo da Roma, Sono nato in Eritrea, ovviamente un italiano da Samara, i problemi dell'Africa li seguo da tanti anni. Allora, il problema di questa tragico, di questo tragico esito, bisogna andare alla base, alla fonte, e cioè nei paesi dove vanno a reclutarli, c'è tutto un marketing, perché questi poveri disgraziati pagano migliaia di euro e di dollari, e lo dicono tutti quanti, sì. E poi vengono illusi, si vendono, ipotecano case, fanno tutto, i più giovani, perché? Perché così poi potranno mandare i soldi alle famiglie, le famiglie si indebitano e partono. E lì c'è tutta una catena, gli scafisti fanno parte, è un anello di questa catena. Assolutamente, che ma io ho chiesto se l'Italia dovrebbe risalire questa catena dalle coste siciliane fino a dove partono. Cioè questo dovremmo farlo noi, Italia? Tutto, l'ONU lo deve fare, non ci vuole poco, guardate un po' di informazioni in quei paesi, sulle TV, guardate. Beh, che ci vuole poco, non lo so Lorenzo, perché... No, i soldi ci vogliono. È un'impresa grande, abbastanza titanica. Io ho semplicemente domandato se è un problema dell'Italia quello che succede in Libia, o quello che succede in Niger, o quello che succede in altri paesi dove magari non c'è democrazia compiuta, non c'è governo, ci sono dittature, però siccome si dice il problema della tratta dei migranti, va bene, ma siamo noi che dobbiamo andarli a prendere a casa? No, come dobbiamo andare in Senegal, faccio un esempio perché conosco un amico senegalese. A fare cosa in Senegal? E a fare il marketing opposto, non andate, state qui, non andate lì perché verrete trattati come schiavi alla vostra partenza, dovete attraversare il Sahel, in Libia sarete in carcere, far vedere invece che l'Italia bella con le coste e gli alberghi, sì, che vedono lì, questo mio amico del Senegal così mi ha detto, e far vedere le condizioni di questi poveracci che vengono reclutati. Questa potrebbe essere una discreta idea. Guarda, io ho parlato con un medico siciliano che si è venduto casa perché su internet aveva letto che c'era una crociera in Italia e poi sarebbe venuta, ha dato 80.000 euro e invece dello yacht che doveva portare in Italia ha trovato il gommone, che era poi i gommoni che forniva quella della console francese, voi sapete che in Turchia vendevano. Cioè vengono poverini, vengono illusi. Sì, no, è chiaro, allora... è chiaro. Grazie Lorenzo, il tuo concetto. Grazie Titoli, TG3. Buonasera dal TG3, via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al reddito di inclusione, un impegno contro la povertà, spiega Gentiloni. Varate misure di sostegno per 400.000 famiglie, circa 1.800.000 persone a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. Vediamo adesso gli altri titoli. La Corea del Nord lancia missile che sorvola il Giappone in serata, riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Trump, ogni opzione possibile, Cina e Russia chiedono moderazione. Siamo qui per aiutarvi, non vi abbandoneremo, ha detto Mattarella visitando le zone di Ischia colpite dal terremoto. Il capo dello Stato incontra il piccolo Pasquale. 26 anni fa la mafia uccise Libero Grassi, l'imprenditore che non si piegò al racket del pizzo. A Palermo manifestazioni e iniziative, non abbassare la guardia, dice Pietro Grasso. Continua la caccia agli stupratori di Rimini, setacciati stabili abbandonati nella zona. La polizia polacca affianca gli inquirenti italiani. Indagini su aggressione di una coppia di Varese. Emergenza incendi nel centro-sud, situazione critica nel Reatino e in Abruzzo, vasti roghi in Calabria, il presidente del Lazio Zingaretti, tutto inutile se non si arrestano i piromani. I carabinieri del NOE hanno sequestrato 20 pompe idrauliche a Bracciano, aspiravano illegalmente acqua dal lago per irrigare terreni privati, 20 indagati. Si può fare. Cronache da un paese migliore. A Allora, sta crescendo l'esercito dei nudisti. Un tempo si chiamavano nudisti, adesso si chiamano naturisti. Sono quasi 300.000 gli italiani che vanno in spiaggia nudi, così come mamma li ha fatti, senza veli. Una delle mete preferite è il camping naturista Pizzo Greco di Isola Capo Rizzuto. È con noi la titolare, Anna Greco. Buonasera. Buonasera anche a voi. E allora, anche perché non so quanti ce ne siano di camping o di posti dove si può stare nudi in Italia, non tantissimi. I posti ce ne sono abbastanza, tutti quelli unici che, l'unico che è sul mare siamo noi. Perché io ho letto che spiagge comunali, diciamo, di demanio pubblico, libere, dove si accettano anche persone nude, sono 5 in tutta Italia. Sono 5, giusto. Sono 5, quindi non sono... Sono con delle... I comuni hanno aderito alla possibilità di far stare i naturisti tranquilli senza essere denunciati o altro. Ecco, però voi fate ogni anno il pienone. Ho letto sul giornale la cifra quasi 100.000 persone, clienti. Per fortuna, possibile? Sì. Certo. È una cosa incredibile. E chi sono i vostri clienti? Che tipo di gente è? Età, sesso, professione? Allora, età parliamo dai 0 ai 90 anni. Sesso, maschio, femmina. E in più abbiamo la fortuna di avere anche gli stranieri. Trasversalissima quindi la pratica. Preferite definirvi naturisti, non nudisti? Nudisti è una parola vecchia. Naturisti perché la gente ama stare in mezzo alla natura, vive a 360 gradi la natura. Però è un po' è una di quelle cose, quelle espressioni che sono cambiate in ossequio, non so a che tipo di ragionamento, perché poi di fatto naturisti anch'io posso amare la natura, però magari non sto nudo, ecco. Quindi il fulcro poi è il fatto che lì si sta completamente nudi tutto il giorno. Sì, tutto il giorno. Tranne in alcuni momenti in cui si condivide il mangiare al ristorante oppure al bar o al market, per una questione anche igienica. Questa è una domanda che volevo fare, perché immaginarmi seduto nudo mentre mangio. No. In alcuni, cioè, preferivo proprio non immaginare. Come le betulle si sta nudi anche mentre si mangia. Voi da no. Noi no, da noi no, per una questione igienica, due perché siamo a contatto diretto con l'esterno. Quindi il ristorante è aperto anche all'esterno, automaticamente non possiamo far stare la gente nuda. Ma come si svolge la giornata tipo, no? Cioè, nel senso, dalla mattina non si alza, esce dalla tenda o dal bungalow? La mattina escono, vanno in spiaggia, hanno i primi momenti di comunità, che sarebbe lo yoga, sarebbe il risveglio muscolare, dopodiché... Sempre rigorosamente nudi? Sempre rigorosamente nudi. Poi ci sono dei momenti un po' più particolari, che sono quelli del condividere le gioie che sarebbero i giochi con i bambini, perché sì. c'è un mini club per i bambini, c'è musica sulla spiaggia, c'è acqua gym, la gente ama divertirsi comunque. Lo fa nudo così quello come sempre, lo fanno quello sempre, quello sempre. Ma è vero che ci sono anche persone di tutte le religioni? Anche... Guardi, noi sì. non andiamo a chiedere che religione siano, anche perché stamattina mi ha chiamato il suo collega, mi ha fatto la stessa domanda. Sì. L'altro giorno abbiamo avuto un giornalista del Libero che ci ha fatto la stessa domanda. Noi siamo convinti che la religione è un momento privato. Delle persone, quindi non andiamo a chiedere, però al 100% sappiamo che da noi abbiamo cattolici, abbiamo protestanti, abbiamo buddisti, abbiamo tutte le religioni. Se c'è l'islamico oppure no, questo noi non lo andiamo a chiedere. Questa era un po' la curiosità, perché siccome sappiamo che gli islamici sì. sono per coprire il corpo, non per scoprirlo, ma allora sarebbe... Non verrebbero in un campo nudista perché c'è l'obbligo di stare nudi. Esatto, no, sarebbe stato oppure interessante capire se... con le amiche, no, ma non con la compagna. Siccome coprirsi il corpo, ci è stato spiegato mille volte da mille islamici, non è che c'è scritto nel Corano, è un fatto di tradizione culturale associata alla religione. Allora è lecito immaginarsi che ci siano dei musulmani che non hanno problemi ad andare in giro nudi. Questo potrebbe accadere, chissà, magari accadrà in futuro, poteva essere interessante capire se da voi questo avviene. Lei non può escluderlo però in assoluto. No, assolutamente. Sappiamo che nelle zone di Egitto sì. eccetera esistono comunque delle strutture naturiste, e presumo che ci vadano anche dei musulmani. Da noi in questo momento siamo onesti, non lo chiediamo. Anche preti però, questo è stato scritto, guardi, una forzatura? No, non è una forzatura, infatti abbiamo già letto l'articolo, una forzatura. Se sono preti o no, io quando arrivano qua non chiedo che professione fanno. A noi serve sapere che persone sono tranquille, sono ligi alle nostre regole che sono molto ferre, sì. e poi da noi un prete non verrebbe perché è un singolo, noi non accettiamo singoli, non sono tesserati, quindi c'è qualche problemino. Poi se ci chiedono di presenziare a una messa per un motivo, noi non diciamo mai di no. Senta, saremo noi che siamo malpensanti, che saremo un po' stupidini, però si pensa sempre a quello, no? Sì. Soprattutto al maschio. Allora, noi abbiamo un collega che ha un problema, no? Lui ha un'erezione ogni ora. Può venire uno così? Ah, guarda, quando arrivo qua gli perde tutte le voglie, perché vede tutte persone nude. Ricordiamoci una cosa, che il costume attira e fa venire più voglie di altre cose. Sì, quindi perché secondo lei gli passerebbe questo problema? Assolutamente, di 90 o 100 anni. Ma lei, scusi, non ho capito, glielo consiglierebbe o no a questa persona? Che se non è nato per stare nudo, no. Meglio di no, meglio evitare. Meglio di no. Perché poi l'altra cosa che sempre stupidamente si pensa, però, che in una situazione del genere sia più facile avere dei rapporti, avere delle relazioni, scambi sessuali, non è vero. Niente. Quello è il problema. Il naturista non è scambista, sono due belle differenze. Il naturista ama stare in mezzo alla natura, sì, quindi vivere la propria pace. Poi noi siamo un campeggio villaggio principalmente familiare, mentre lo scambista è tutt'altra cosa. Certo. La loro vita privata ama divertirsi. Sì, no, ma anche meno, cioè sì, secondo lei c'è anche una, come dire, una quantità di incontri e di scambi sessuali minore che in un altro campeggio normale? Questo No, potrebbe essere uguale, essere inferiore al secondo. Consideriamo che la gente qua dentro è come una grande famiglia. C'è gente che viene qui da 35 anni. Beh, 100.000 persone l'anno, però ci sarà anche gente che non si è mai vista, questo po'. Sì, però poi diventano come se fossero a casa, quindi automaticamente ritornano il prossimo anno. Il bello di tutto questo piccolo paradiso, così come lo chiamano, è che comunque la gente ci ritorna ogni anno. Va bene, grazie, buona serata. Grazie, Anna Greco, titolare del camping naturista Pizzo Greco di Isola Capo Rizzuto. Allora, andiamo con ancora qualche ascoltatore, c'è ancora un po' di tempo prima di chiudere. Mario, da Roma, vai. Salve, buonasera a tutti quanti quelli che stanno ascoltando. Senta, in merito per quanto riguardava quello che era l'esposto del Kodakon, sì, io prima in macchina, con dovuto rispetto, io ho riso non poco. No, perché mi aspetto che il prossimo esposto del Kodakon sia nei confronti di Playboy o Leore per procurata cecità o per accusati calli alle mani, il che francamente, vista l'orbita, mi sembra così un pochettino reazionaria o proibizionista che ha preso, non so se ha intercettato qualche realtà politica particolare che gli è consona o accordata sullo stesso tipo, però direi che, almeno vi ricordo che il Kodakon era una realtà molto molto precisa su cui quelli che erano i cittadini, i consumatori e le persone della vita civile laica potevano fare un certo tipo di affidamento. Adesso mi sembra che ci sia una deriva dove, ecco appunto, io ho il piacere di ascoltarvi, sento un intervento di questo genere, rido. Può darsi che è un mio problema, che non ho colto l'importanza, il grande messaggio. No, il fumo sicuramente fa male, la questione della pubblicità sicuramente è stata affrontata ampiamente, il fatto di Corto Maltese anche a me fa un po' sorridere, devo dire la verità. Anche perché, guardi, andare a stravolgere ex post, no? Cioè, quello che era una storia, guardi, no? Di quella di Corto Maltese, così come Tex Willer, è nato in quel modo lì. Secondo me è giusto anche che le nuove generazioni, diciamo così, i giovani di oggi che non sono nati con Tex Willer e Corto Maltese, non sanno nemmeno cosa sono, sappiano che prima c'erano delle storie nei cui i protagonisti bevevano, fumavano, e oggi stiamo in un'altra situazione. Guardi, allora è bene che il Kodakons non sappia che in Italia vengono stampati libri di Charles Bukowski, Céline o altri, perché a questo punto lì addio, chiuso, censura totale, chiuso. Però ecco se posso proprio una brevissima postilla, sì, e poi giustamente lascio spazio 20 secondi per amici. Chiudere 20 secondi. Io penso che in questo paese si stia troppe persone si stanno ergendo a giudici e a improbabili legislatori di quelle che sono persone adulte che nei limiti consentiti o non vietati dalla legge possono fare liberamente le loro scelte. Ci sono gli spazi per i fumatori, ho il diritto di fumare e ho soprattutto il dovere di non coinvolgere nessun altro in quello che è un piacere / vizio. Devo chiudere. Grazie mille a te, grazie a tutti gli ascoltatori, Alessandro Longoni, Riccardo Poli, Andrea Spenuso in redazione, Roberta Frisani in regia. Noi ci risentiamo domani 18:20 con Si può fare. Ciao, buona serata da Alessio Maurizio. Ciao.